Radio 24 Reportage. Turismo Modello Salento, un brand da esportare? Di Alessandra Tedesco. Mediterraneo, Mediterroni, Mediterraneo, Mediterroni, Mediterraneo, Mediterroni, Mediterraneo, Mediterroni. Fino a 15 o 20 anni fa, il Salento, tacco d'Italia, era un posto di mare come tanti altri del sud, spesso difficile da raggiungere e con strutture e servizi poco sviluppati. Ora il Salento è una delle mete turistiche italiane più ambite, frequentato e amato anche da VIP italiani e stranieri. Quando parliamo non è un difetto, se riscatta qualche parola nel letto, riusciamo sempre a farci capire e con gli gesti le parole annusire. Hanno comprato casa in questa zona della Puglia Serena Dandini, proprietaria di un palazzo storico nel centro di Marittima. L'attrice inglese premio Oscar Helen Mirren e il marito, il regista americano Taylor Hackford, sono di casa nel Salento da anni e hanno ristrutturato una masseria del 500 nelle campagne di Tiggiano. Altri abitué del Salento, il regista Ferzan Özpetek, diventato cittadino onorario di Lecce, il vignettista Giorgio Forattini, l'attore americano William Defoe. Dal 2006 al 2010 la presenza di turisti in Salento durante l'estate ha registrato una crescita a due cifre. Negli anni della crisi il fenomeno si è un po' ridimensionato, ma resta sempre un segno positivo, segno che poche regioni d'Italia possono vantare nel 2013. Insomma, non c'è stato il boom, ma un piccolo incremento che, visti i tempi, è un ottimo risultato. Ce lo racconta un salentino doc che da anni lavora nel settore del turismo e Vito Vergine, presidente del sindacato balneare a Lecce e proprietario del Lido Maldive del Salento a Salve. Sì, abbiamo registrato questo aumento di flussi. Non so se si possa parlare di un miracolo o di una tendenza che parte da lontano e che si consolida anche di questi tempi e nonostante tutto e tutti. Dobbiamo registrare dei dati di fatto che ci dicono che anche l'anno scorso e quest'anno, annate alle quali ci siamo avvicinati tutti con preoccupazione, addirittura oltre che prudenza, alla fine dei conti abbiamo registrato dei flussi in aumento nel Salento in generale e, se vogliamo, nell'ambito del discorso Salento anche il mio stabilimento balneare, che per essere ormai una voce di popolo, mi imbarazza dirlo, ma insomma sembra sia una piccola locomotiva, se non del Salento, almeno del sud Salento, del Capo di Leuca, dove insiste fisicamente. In generale, come movimento su scala provinciale, io penso che siamo cresciuti di un 10% annuo. Teniamo conto che molte zone, forse la gran parte delle zone, hanno raggiunto da tempo una saturazione, per cui quando parliamo di aumenti si riferisce alla bassa stagione. L'altissima ormai satura da tempo. E per questo qui si apre un altro problema, quello del miglioramento della qualità. Miglioramento di qualità significa anche prezzi, significa competitività, significa in definitiva rivolgersi a un'utenza diversa, più qualificata. E allora si può parlare di modello Salento? Di un brand da esportare? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Montinari, albergatore salentino e presidente della sezione turismo di Confindustria Lecce. Il modello Salento è ancora un po' prematuro definirlo tale, però sicuramente noi assistiamo a un fenomeno in cui la destinazione si sta affermando come nuova destinazione turistica, sicuramente a livello nazionale, e stiamo riscontrando anche un forte apprezzamento della clientela internazionale, questo grazie sicuramente a un ottimo lavoro di promozione fatto delle istituzioni, ma anche molto del passaparola che si è generato con gli investimenti immobiliari che sono stati effettuati in prima battuta forse in Valle d'Itria, ma poi con le masserie nel Salento e l'arrivo di personaggi famosi di calibro internazionale che hanno portato a loro volta amici ospiti. Per cui si sta affermando come destinazione e anche grazie soprattutto all'offerta del territorio, che è un'offerta culturale di elevato livello ma anche naturistica, per cui il giudizio che arriva di ritorno da questi turisti o ormai da questi stanziali, perché alcuni hanno anche deciso di abitare nel Salento, è proprio di aver riscoperto le tradizioni e in qualche maniera anche un po', diciamo, la natura selvaggia, quello che non si trova più in alcune destinazioni italiane ormai affermate come la Toscana o il Lazio. L'aspetto positivo del Salento è che stanno aumentando i turisti stranieri, preziosi più che mai in un periodo in cui la capacità di spesa degli italiani è diminuita. Come abbiamo già detto, i VIP, anche stranieri, hanno fatto la loro parte, nel senso che hanno acceso un faro su questa zona d'Italia, ma la crescita degli arrivi dall'estero è anche merito delle campagne promozionali ad hoc realizzate in tutta Europa dalla Regione Puglia. Ce lo spiega Stefania Mandurino, responsabile programmi di qualificazione e valorizzazione dell'offerta turistica territoriale. C'è una campagna di promozione sia nelle fiere nazionali ma soprattutto nelle fiere internazionali, si sta lavorando moltissimo sul mercato straniero e mi pare che i risultati si stiano vedendo, perché anche in Puglia quest'anno la crescita degli stranieri insomma è indubbia, probabilmente è il mercato che sicuramente ha salvato l'estate italiana, ma che ha dato anche un grande contributo all'estate pugliese, e quindi partecipazione alle fiere di settore più varie, ma anche delle campagne di promozione mirate. We Are in Puglia è stata una bellissima campagna di promozione attraverso un set fotografico straordinario che ha toccato un po' tutte le capitali europee di maggiore interesse, soprattutto le capitali dalle quali partono i voli diretti che raggiungono gli aeroporti di Bari e Brindisi, per cui anche questo gap che avevamo fino a qualche anno fa della distanza è stato indubbiamente facilitato dai collegamenti diretti che consentono appunto di raggiungere la Puglia nel giro di massimo 2 ore dalle capitali europee di tutta l'Europa, assolutamente. Quindi una campagna promozionale molto forte, ma anche il canale dei social è stato un canale che tanto riesce a interfacciarsi con il pubblico più giovanile. Non è un caso che noi abbiamo avuto una crescita del mercato giovanile assolutamente interessante quest'anno, lo scorso anno, e devo dire che è un mercato sempre più in crescita. I voli low cost su Bari e Brindisi da varie città d'Italia ed Europa sono stati dunque fondamentali per dare una svolta al turismo, perché, come sempre, l'accessibilità di un territorio è determinante per far arrivare i visitatori. Una volta arrivati, però, i turisti hanno bisogno di strutture e servizi, e anche qui il Salento si è dato da fare, cambiando atteggiamento negli ultimi anni. Ancora Vito Vergine, presidente provinciale del sindacato balneari a Lecce. 25 anni fa circa un gruppo di salentini, e io ho il piacere e l'orgoglio di farne parte, di averne fatto parte, cominciarono a parlare contro tutto e tutti, o a dispetto di tutti, di Salento, quando ci si vergognava quasi. Ne abbiamo parlato, io avendo avuto un ruolo notevole a livello regionale nelle Proloco, ne ho parlato in tutta Italia, perché non avevamo esperienze da raccontare, raccontavamo sogni. A qualcuno forse è piaciuto, qualcuno è venuto a vederci. Siamo stati attenti però a far trovare alle persone un qualcosa in più rispetto a quello che si diceva, e mai un qualcosa in meno, che era il nostro difetto di 20-30 anni fa. Perché 20-30 anni fa molto spesso i turisti trovavano nelle abitazioni al mare i mobili dismessi dalle nostre famiglie, perché noi pensavamo che il pollo fosse il turista. Invece poi nel tempo, con il passare di decenni, abbiamo capito che i polli magari stavano a casa nostra, abbiamo fatto le persone serie, abbiamo raccontato la verità, poi le persone oltre alla verità hanno trovato anche questo ambiente bellissimo, e poi si è innescato un processo positivo che dobbiamo portare avanti però. Mediterraneo, Mediterroni, Mediterraneo, Mediterroni, Mediterraneo, Mediterroni, Mediterraneo, Mediterroni, Mediterraneo, Mediterroni, Mediterraneo, Mediterroni, Mediterraneo, Mediterroni, Mediterraneo, Mediterroni. Il Salento, insomma, ha saputo moltiplicare le offerte di servizi, come spiega ancora Stefania Mandurino. non è solo un fatto quantitativo, è un fatto qualitativo, se è vero come è vero, che il Salento ha saputo forse meglio di altri territori vendere un territorio nella sua interezza, nella sua globalità. Il mare è una risorsa importantissima per noi, in Salento ma in tutta la Puglia, quasi 900 km di costa, bellissime, con un mare di qualità eccezionale che non fa invidia a niente o a nessuno. Però la differenza rispetto ad altre destinazioni è che oltre al mare c'è un intero territorio dentro il mare, nella terra, tutto interessante e bello da vivere. In Salento si può decidere sicuramente di alloggiare a Gallipoli, a Otranto, nella stessa città di Lecce in piena estate, ma si può tranquillamente decidere invece di dormire in un piccolo paesino dell'entroterra, in uno dei 100 paesini della provincia di Lecce, tutti e 100 luoghi di ricettività, perché tutti e 100 avranno un bed and breakfast, una masseria, un agriturismo o un albergo dove si può alloggiare, per poi decidere la mattina di raggiungere una spiaggia o un pezzo di roccia sull'Adriatico o sullo Ionio a seconda del vento, perché si fa così, per poi la sera raggiungere una delle tante piazze dei comuni appunto del leccese, dove sicuramente ci sarà un evento, che sia uno spettacolo di pizza, che ci sia un momento culturale altro, un momento enogastronomico, una sagra o che so io. Il tutto, mi piace sottolinearlo, a prezzi assolutamente low cost rispetto a quello di altre destinazioni. Tra fabbriche e terre faticamo, perché capaci di adattamo, della fatica non ne schifamo, usciamo girando con la roba. Noi troviamo un lavoro anche quando non c'è, se non c'è non sentiamo come martupiede. E uno dei modi per attirare turisti è il progetto Open Days, ce lo racconta ancora Stefania Mandurino della Regione Puglia. È un progetto di accoglienza che invita a visitare la Puglia nelle sue bellezze ambientali, culturali e nelle sue potenzialità enogastronomiche, per cui tutti i giovedì, tutti i venerdì e tutti i sabato d'estate si ospitano gratuitamente, il giovedì presso cantine, masserie e frantoi, il venerdì presso i nostri parchi, aree marine protette, sistemi ambientali culturali, il sabato presso i beni culturali della Puglia, si ospita gratuitamente mediante visite guidate e attività più varie che aiutano i nostri visitatori a conoscere una Puglia che anche d'estate non è solo mare, ma è una ricchezza infinita di bellezze, ripeto, ambientali, culturali, e anche una capacità di un saper fare da parte dei nostri, dei cittadini, dei residenti, di un saper accogliere che ci auguriamo possa fare la differenza rispetto ad altre destinazioni. Le musiche che avete ascoltato in questo reportage sono di due gruppi salentini, Kama Fei e Niuri Tesuli. In regia Fabio Cantadori. Un saluto da Alessandra Tedesco. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.